A volte sembra quasi di volare, a volte puoi soltanto andare giù. A volte tutto è dove deve stare, basta solo un po' cercare, ma a volte forse non c'è più. Però, io non mi piego, sono caduto mille volte, ma non mi siedo. E lo so, neanche un passo indietro mai. Se mi gioco tutto quanto è perché ci credo. E ogni sbaglio è uno sbaglio a metà. Se ci credi, sì, uno sbaglio è uno sbaglio a metà. Non fanno niente i temporali, sì. Ma non lo vedi quanto è bella questa strada? Ci corro ad occhi chiusi e vada come vada. Chi se ne frega se avrò un graffio in più domani? Ci penserò domani, domani. E tu e sì, ci sono giorni da dimenticare che ti buttano per terra la felicità. Certi giorni invece sì sono da incorniciare, in cui ce n'hai fin troppa di felicità. A volte hai soltanto bisogno di non starci a pensare più, di lasciarti andare, di lasciarti trascinare. Lo so, forse non mi spiego bene, ma io con chi non rischia niente proprio non ci lego. Ed ogni sbaglio è uno sbaglio a metà. Non fanno niente i temporali, ma non lo vedi quanto è bella questa strada? Ci corro ad occhi chiusi.